quando ti ho visto arrivare, bello così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu ti accorgessi di me. Sempre ti amo da mai.